24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. C'è l'accordo forte sul fatto che il rigore e la crescita non sono in contrasto, ma sono entrambi necessari. Lo ha detto il portavoce della Merkel, Steffen Seibert, riferendo della teleconferenza dei leader della UE che si è tenuta ieri in vista del G8 che inizierà oggi a Camp David negli Stati Uniti e che si presenta come una sorta di test per l'Eurozona. A partecipare alla riunione a distanza il premier Monti, il presidente francese Hollande, la cancelliera Merkel, il premier britannico Cameron e il presidente del Consiglio europeo Van Rompuy. Nella videoconferenza al centro, naturalmente, il problema più urgente, ovvero il futuro di Atene. La determinazione di tutti è quella espressa nel corso di una riunione dell'Assemblea Generale dell'ONU dal Presidente della Commissione Europea Barroso. L'Unione Europea farà il possibile perché la Grecia rimanga in Europa, ha detto. Il Presidente della Commissione Europea ha anche sottolineato che a livello europeo è arrivato il momento di mettersi d'accordo e decidere le misure da prendere per rilanciare la crescita. I leader UE ne parleranno al vertice informale del 23 maggio e poi a quello di fine giugno, dove dovranno essere lanciate iniziative concrete. L'unità politica europea è indispensabile per promuovere uno sviluppo economico più equo e sostenibile e per rafforzare la nostra economia sociale di mercato. Lo ha scritto in un messaggio Giorgio Napolitano in occasione della consegna di un premio internazionale al ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble. Il Fondo Monetario Internazionale rimanda, dopo le elezioni in Grecia del mese prossimo, una missione di monitoraggio ad Atene e attende di prendere contatto con il nuovo governo quando sarà formato. Lo ha detto il vice direttore delle relazioni esterne dell'istituto David Hawley durante la conferenza stampa bisettimanale, sottolineando che c'è un programma in atto per aiutare il paese. Hawley ha aggiunto che il Fondo Monetario Internazionale ritiene che la Banca Centrale Europea abbia spazio per ulteriori azioni di riduzione dei tassi. Intanto ieri ha giurato il governo provvisorio che accompagnerà la Grecia alle nuove elezioni il 17 giugno. L'esecutivo è guidato dall'ex presidente del Consiglio di Stato, Pikramenos. E nel clima di incertezza le borse chiudono ancora negative. I continui timori sulla situazione finanziaria greca e il balzo dei rendimenti nell'asta spagnola hanno penalizzato le borse europee, che hanno però recuperato sul finale. Milano è arrivata in mattinata a sfiorare i minimi assoluti del 9 marzo 2009, ha poi limitato le perdite e ha chiuso a meno 1,46%. In netto calo le banche, sulle voci di un declassamento di 21 istituti iberici da parte di Moody's, mossa che seguirebbe la bocciatura delle 26 banche italiane. A Piazza Affari MPS ha ceduto oltre il 5%, Unicredit il 4,7%. La migliore sul FTSE MIB è stata TOTS più 3,35%, seguita da A2A più 3% e da Fiat Industrial più 2%, che ha beneficiato dei risultati migliori delle attese annunciati dalla concorrente americana DIR. Nel resto del listino sono balzate di oltre l'11% IUX sulle voci di un accordo con la francese PPR e Fonsai nel giorno cruciale per l'integrazione con Unipol. Iren ha perso il 35,6% in quattro sedute, risentendo della pubblicazione dei conti sotto le attese. Livia Zancaner da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. Sulla Grecia l'Europa deve finalmente prendere in mano la situazione e capire che è un problema gestibile. Lo ha detto il ministro per lo sviluppo economico Corrado Passera a margine del Wharton Forum. La Grecia è un problema più tocca tutto il mondo, ma è più di responsabilità europea, e quindi immagino che sarà uno dei temi sullo sfondo del G8, ma non direttamente lì la responsabilità per trovare una soluzione. Però l'Europa finalmente deve prendere veramente in mano la situazione e capire che il problema della Grecia è un problema gestibile ed è un problema dove l'Europa può veramente dare una soluzione definitiva. Da Camp David noi tutti ci aspettiamo un segnale forte ma concreto in termini di responsabilità e commitment, impegno dei grandi del mondo in termini di crescita, e qui l'Europa per ora ha più parlato che portato fatti e cose concrete. L'agenzia internazionale Moody's taglia il rating di quattro regioni spagnole. Si tratta di Catalogna, Murcia, Andalusia ed Estremadura. Lo comunica Moody's in una nota spiegando che la decisione è legata alla debole performance finanziaria nel 2011. L'Italia ha primato europeo di anzianità della classe dirigente, un'età media di 59 anni. Il record per i manager delle banche a pari merito con i vescovi in carica e i rappresentanti del governo, rispettivamente 67 e 64 anni, seguiti dai professori universitari con 63 anni. I più giovani sono i dirigenti delle aziende quotate in borsa con 53 anni. E quanto emerge da uno studio di Coldiretti. Vittorio San Giorgio, presidente di Coldiretti Giovane Impresa, al microfono di Simone Spezia. Diciamo che il dato che viene fuori è che siamo ad una età media vicino ai 60 anni, la più alta tra i paesi europei. Questo diciamo che potrebbe essere sconfortante se lo interpretiamo nell'unico modo in cui lo vogliamo leggere noi, cioè ovvero non ci spaventa oppure non va letto in chiave negativa il fatto che l'età della classe dirigente è alta. Il fatto è che questa classe dirigente si è un po' seduta e non sta provvedendo a quelle che sono le politiche e le riforme che servono ai giovani. E questa è la cosa che contestiamo e pertanto la leggiamo in maniera negativa. Per classe dirigente cosa intendete? Sì, il lavoro che è stato fatto prendendo in considerazione le organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale, quelle sindacali, ma andando anche nelle istituzioni, nel governo, nel Parlamento, nel Senato, nelle università, è un dato che viene fuori prendendo in considerazione tutti i mondi che devono o dovrebbero contribuire a quella azione di rilancio dei giovani nel nostro paese. Sospeso sine die il processo in corso all'AIA contro Ratko Mladic, sono stati mostrati documenti che ne provano le responsabilità nel massacro di Srebrenica, definibile secondo l'accusa come genocidio. In aula l'ex generale serbo si è distinto per un gesto violento rivolto alle donne sopravvissute a quell'attacco sedute in platea. L'opinione di Ennio Remondino, inviato della RAI nei Balcani negli anni della guerra. Bisogna vedere come questo processo si svolge. 400 testimoni mi sembra uno sproposito. Sarà da discutere l'ipotesi del reato di genocidio, perché giuridicamente è stato mal definito, sperando che non accada come con Milošević, che l'imputato arrivi ad ottenere un giudizio prima della sua morte. Poi sarebbe interessante che il Tribunale dell'AIA arrivasse a colpire anche un po' di altri colpevoli di massacri minori, tra virgolette, ma che hanno provocato decine e decine di vittime e sicuramente hanno fomentato gli odi incrociati tra le varie etnie e appartenenze nei Balcani. C'è una nuova data per l'inaugurazione dell'aeroporto di Berlino. Lo scalo intitolato a Willy Brandt accoglierà i primi passeggeri il 17 marzo 2013. Lo ha assicurato il sindaco della capitale tedesca Klaus Wowereit. Sempre che, questa volta, tutto fili liscio. L'opera, costata 2 miliardi e mezzo di euro, doveva essere originariamente aperta nel 2007. Poi l'inaugurazione era slittata al prossimo 3 giugno, ma la cerimonia era stata annullata all'ultimo momento, quando gli inviti alle massime cariche dello Stato erano già stati spediti. Problemi ai sistemi di sicurezza, pochi check-in, sale d'attesa troppo piccole. Dettagli, questione di mesi, secondo la società incaricata dei lavori. Ora sono arrivate le dichiarazioni del borgomastro di Berlino a rassicurare le compagnie aeree, a cui il ritardo costa 15 milioni al mese. Senza contare il danno d'immagine per una Germania che non perde occasione per sottolineare la sua efficienza di fronte ai partner europei. Lucio Bondi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un velivolo delle Air Dolomiti in volo da Monaco a Venezia è rientrato sull'aeroporto di partenza per la presenza di fumo in cabina e durante l'atterraggio è uscito di pista. Non sono state segnalate conseguenze per i 58 passeggeri e 4 membri dell'equipaggio. Scrosci di pioggia e un arcobaleno che squarciava le nuvole hanno caratterizzato la cerimonia ad Atene per la consegna della fiaccola olimpica dalle autorità greche al comitato organizzatore di Londra 2012. Nello stadio ateniese, teatro nel 1896 delle prime Olimpiadi dell'età moderna, il presidente del comitato olimpico greco, Spiros Kapraios, ha consegnato la torcia all'omologa britannica, la principessa Anna d'Inghilterra. Presenti David Beckham e il sindaco di Londra, Boris Johnson. Ed è tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, grazie a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.